78. Risotto alla milanese primo. Riso grammi 500, burro grammi 80, zafferano quanto basta a renderlo ben giallo, mezza cipolla di mediocre grossezza. Per la cottura regolatevi come al numero 75. Per rendere questo risotto più sostanzioso e più grato al gusto, occorre il brodo. Lo zafferano, se in caso avete un mortaio di bronzo, comperatelo in natura, pestatelo fine e scioglietelo in un gocciolo di brodo caldo prima di gettarlo nel riso che servirete con parmigiano. Lo zafferano ha un'azione eccitante, stimola l'appetito e promuove la digestione. Questa quantità può bastare per 5 persone.